Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la vostra Bibbia al capitolo 16 di Marco, capitolo 16 di Marco, perché leggerò alcuni versetti, leggerò i versetti che vanno dal 14 al 20. Così è scritto: di poi apparve agli undici mentre erano a tavola e li rimproverò della loro incredulità e durezza di cuore perché non avevano creduto a quelli che l'avevano veduto risuscitato e disse loro: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Or questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto: nel nome mio cacceranno i demoni, parleranno in lingue nuove, prenderanno in mano dei serpenti e seppur bevessero alcunché di mortifero, non ne avranno alcun male, imporranno le mani agli infermi ed essi guariranno. Il Signore Gesù dunque, dopo aver loro parlato, fu assunto nel cielo e sedette alla destra di Dio. E quelli se ne andarono a predicare dappertutto, operando il Signore con essi e confermando la parola coi segni che l'accompagnavano. Quindi Gesù Cristo, dopo essere risuscitato dai morti, secondo le scritture, apparve ai suoi discepoli. Qui Marco dice che apparve agli undici, mentre erano a tavola, e che li rimproverò della loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che l'avevano veduto risuscitato. Infatti noi sappiamo che il Signore era apparso a Maria Maddalena, e Maria Maddalena aveva riferito che aveva visto il Signore Gesù, lo aveva riferito ai suoi discepoli, ma dice che non lo credettero. È scritto così, infatti, al capitolo 16 di Marco, versetto 11, ed essi, udito che egli viveva ed era stato veduto da lei, non lo credettero. Ecco perché, vedete, poi Gesù li rimproverò della loro incredulità e durezza di cuore. Anche quando apparve a due discepoli del Signore Gesù che erano in cammino per andare ai campi, è scritto, leggiamo al versetto 13, e questi andarono ad annunciarlo agli altri, ma neppure a quelli credettero. Vedete? Ci fu dell'incredulità inizialmente tra i discepoli, cioè non credettero che Gesù era risuscitato. Il Signore poi, quando gli apparve, li rimproverò. Ebbene, Gesù apparve dunque agli undici e dopo averli rimproverati, gli diede appunto questo comandamento: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. È un ordine, non un consiglio. E quindi il Signore specificò ai suoi undici discepoli o apostoli il messaggio che essi dovevano predicare ad ogni creatura, quindi non solo ai giudei, ma anche ai gentili. Il messaggio che essi dovevano predicare era l'Evangelo. Ora, la parola Evangelo significa buona novella o buona notizia. Dunque, l'Evangelo è la buona novella, la buona notizia. E qual è? La buona notizia? Lo leggiamo al capitolo 5 degli Atti degli Apostoli, al versetto 42. Leggiamo che cos'è l'Evangelo, che cos'è la buona novella. E ogni giorno nel tempio e per le case non ristavano di insegnare e di annunziare la buona novella che Gesù è il Cristo. Ecco dunque in che cosa consiste l'Evangelo o la buona novella. Nell'annuncio che Gesù è il Cristo. Ora, che cosa significa che Gesù è il Cristo? Il termine Cristo viene dal termine Christos, che significa unto. L'equivalente parola ebraica per unto è Mashia, che viene tradotto naturalmente con Messia. Allora, quando affermiamo, o meglio, quando la scrittura afferma che Gesù è il Cristo, intende dire che Gesù è colui nel quale si sono adempiute le scritture profetiche concernenti il Cristo o Messia. Perché parliamo di scritture profetiche? Perché Dio aveva per mezzo dei suoi profeti fatto preannunziare la venuta nel mondo del Cristo o Messia. E aveva fatto preannunziare tante cose in merito al Cristo. Il Cristo doveva soffrire, doveva morire per i nostri peccati. Questo infatti è quello che il Dio aveva sospinto il profeta Isaia a dire in merito al Cristo. Infatti il profeta Isaia disse: ma egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Isaia stava parlando, quando diceva queste parole, stava parlando del Cristo che il Dio aveva promesso di mandare. Non solo, il Cristo doveva anche resuscitare dai morti e il Dio aveva sospinto per mezzo del suo spirito, aveva sospinto Davide a dire queste parole in un salmo: anche la mia carne riposerà in speranza, poiché tu non lascerai l'anima mia nell'Ade, se non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Vedete? In questa maniera Davide, che era profeta, antivenendola, parlò della resurrezione del Cristo, dicendo che non sarebbe stato lasciato nell'Ades e che la sua carne non avrebbe veduto la corruzione. Peraltro, anche in un altro salmo c'è ci sono delle parole che concernono proprio la resurrezione del Cristo. Infatti nel salmo secondo leggiamo: tu sei il mio figliolo, oggi ti ho generato. Fu in questa altra maniera che il Dio preannunziò la resurrezione del Cristo. Ebbene, l'Evangelo è la buona novella che Gesù è colui del quale parlarono i profeti ab antico, cioè il Cristo. che i giudei aspettavano quando Gesù, il figlio di Dio, venne nel mondo, i giudei stavano aspettando il Cristo o Messia. Ma molti giudei non credettero che Gesù era il Messia. Fu solamente un piccolo numero di giudei, un residuo, che credette che Gesù era il Cristo. E tutto questo affinché si adempissero le scritture. Dunque, l'Evangelo afferma che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture. Fu seppellito, risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, e apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Secondo quanto dice l'Apostolo Paolo, che ricevette l'Evangelo per rivelazione di Gesù Cristo, Gesù, dopo essere risuscitato da morte, apparve a Cefa, cioè a Pietro, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli. Quindi anche le apparizioni del Signore Gesù dopo la sua resurrezione sono trascritte e sono importanti. Perché? Perché la resurrezione del Signore Gesù Cristo ebbe tanti testimoni oculari, perché lo videro risuscitato. Le apparizioni trascritte nella Bibbia del Signore Gesù dopo la sua resurrezione, lo ripeto, sono fondamentali, importanti, perché fanno capire che ci furono molti testimoni oculari della sua resurrezione. E difatti poi essi testimoniarono che Gesù Cristo era risuscitato dai morti. E naturalmente ci furono coloro che accettarono la loro testimonianza, ma molti non accettarono la loro testimonianza. La stessa cosa avviene ancora oggi. La stessa e identica cosa. Ci sono coloro che credono e coloro che non credono. Allora torniamo alle parole di Gesù agli undici. Allora, andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Ora, se il Signore Gesù ha dato questo ordine, vuol dire che è necessario che ogni creatura ascolti l'Evangelo. Non vi pare? E se è necessario che ogni creatura ascolti l'Evangelo, vuol dire che l'Evangelo è un messaggio importante. Non è un messaggio, non è una parola da nulla, è un messaggio importante. E difatti lo è. Perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Ecco perché l'Evangelo va predicato ad ogni creatura, perché è potenza di Dio per la salvezza ad ogni credente. L'Evangelo è l'unico messaggio sulla faccia della terra, nel quale l'uomo, credendo, viene salvato. perché l'uomo ha bisogno di essere salvato in quanto è peccatore. Chi commette il peccato è schiavo del peccato, dunque ha bisogno di essere salvato. E l'Evangelo è il mezzo, o meglio, la parola usata o stabilita da Dio per la salvezza dell'uomo. Perché Dio ha stabilito che l'uomo, schiavo del peccato, venga salvato dal peccato credendo nell'Evangelo, che è il suo Evangelo, cioè l'Evangelo di Dio. Peraltro è anche chiamato l'Evangelo di Cristo. Quindi è di fondamentale importanza che il peccatore ascolti l'Evangelo, perché è solamente credendo nell'Evangelo che l'uomo viene salvato, liberato dai suoi peccati. E perché? Perché è solamente credendo nell'Evangelo che l'uomo viene salvato? Perché nell'Evangelo la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Perché, in altre parole, credendo nell'Evangelo, l'uomo viene giustificato, reso giusto. L'uomo senza Dio è un empio, un peccatore, sulla via della perdizione, l'ira di Dio è sopra di lui. Credendo nell'Evangelo, egli ottiene la giustizia di Dio, che è rivelata nell'Evangelo. La ottiene, la riceve. Anzi, per essere, diciamo, per confermare ciò, diciamo che diventa giustizia di Dio in Cristo. Infatti dice Paolo, colui che non ha conosciuto peccato, egli l'ha fatto essere peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Considerate dunque, credendo nell'Evangelo, che cosa avviene nell'uomo? Egli viene stabilito giusto. Egli diventa giustizia di Dio in Cristo Gesù. Avviene qualcosa di grande, di meraviglioso, che naturalmente viene testimoniato da coloro che credono nell'Evangelo. Infatti, solamente coloro che credono nell'Evangelo possono dichiarare di essere salvati, di essere giustificati. Solo coloro che credono nell'Evangelo. Quindi vi dicevo, è di fondamentale importanza ascoltare per credere. Infatti, dice bene l'Apostolo Paolo quando dice la fede viene dall'udire, l'udire si è per mezzo della parola di Cristo. La parola di Cristo. L'Evangelo è la parola di Cristo. Non è la parola di un uomo. Viene anche chiamata parola di Dio. L'Evangelo, sì, state attenti ai ciarlatani, ai bugiardi, agli impostori che dicono che l'Evangelo non è la parola di Dio, ma un'estensione della parola di Dio. Bugiardi! L'Evangelo è la parola di Dio. Così è chiamato e così noi proclamiamo, turando la bocca a coloro che contrastano la verità. Quindi, come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? Ecco perché Gesù ha detto: andatevi tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Perché per credere bisogna ascoltare l'Evangelo, la parola di Dio. Quindi non le favole. La fede non viene dall'udire le favole profane, le fiabe. La fede non viene sentendo un altro Vangelo. Perché oggi vanno di moda tanti messaggi che vengono presentati come Vangelo, ma non sono Vangelo. Capito? La fede viene dall'udire, e l'udire si è per mezzo della parola di Cristo. Quindi bisogna annunciare la parola di Cristo. Non bisogna annunciare le favole, le ciance. Non bisogna fare discorsi di sapienza umana quando si evangelizza. Bisogna annunciare l'Evangelo, che è un messaggio semplice, chiaro, ma nello stesso tempo potente. Però il nemico l'ha fatto sparire. Cosa vuoi dire? L'ha fatto sparire da molti pulpiti. Infatti da molti pulpiti l'Evangelo non si sente. Si sentono barzellette, battute, si sentono discorsi profani, si sentono veramente scelleratezze di ogni genere, ma non si sente l'Evangelo. Come mai? Perché c'è chi ha interesse a che l'Evangelo non venga predicato. Là il nemico l'ha portato via. L'ha portato via affinché gli uomini non credano e non siano salvati. Perché il diavolo, perché il nemico è il diavolo, diavolo che non è una brava persona, come vanno dicendo i gnostici. Diavolo è il nemico. Allora, l'avversario che cosa fa? Viene, porta via dal cuore di coloro che ascoltano la parola, porta via la parola dal cuor loro, affinché non credano non siano salvati. Quindi è evidente, perché mi sto rifacendo a quello che Gesù disse quando spiegò la parabola del seminatore, è evidente che se questa è l'opera del diavolo, è chiaro che chi fa sparire, chi ha portato via l'Evangelo dai pulpiti, non può che essere il diavolo. Affinché veramente coloro che vanno in questi locali non credano e non siano salvati. Quindi il diavolo sa che l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Lo sa. Ed è per questo che fa di tutto affinché l'Evangelo non sia predicato. L'Evangelo è la parola della buona novella, fratelli nel Signore, mediante il quale noi siamo stati e siamo salvati, mediante il quale noi siamo stati rigenerati. Noi siamo diventati figlioli di Dio, credendo nell'Evangelo. Credendo nell'Evangelo si ottiene la remissione dei peccati. Credendo nell'Evangelo si ottiene la giustificazione, come vi ho detto. Credendo nell'Evangelo si ottiene la vita eterna. Infatti chi crede a vita eterna. Quindi vedete, credendo nell'Evangelo si ottengono tante cose, e tutte queste cose per grazia, non per meriti, non per opere, non per sacrifici, non per mortificazioni, no, per grazia. Allora capite quanto è importante predicare l'Evangelo? Per predicarlo naturalmente bisogna crederci, innanzitutto. E poi bisogna essere mandati, perché dice... Come predicheranno se non sono mandati? Non è che tutti vengono mandati a predicare l'Evangelo. Infatti oggi l'Evangelo è predicato solo da coloro che sono stati mandati dal Signore. E quei pochi che lo annunciano vengono naturalmente odiati, disprezzati, calunniati. Da chi? Da coloro che non credono nell'Evangelo. Da coloro che odiano Dio, da coloro che lottano contro Dio, perché c'è anche questa razza di gente, no? Sono persone particolari, no? Lottano contro Dio, non sapendo poi quello che li aspetta. Questi non sanno che cosa aspetta quelli che lottano contro Dio. Io ne ho visti di lottatori contro Dio fare veramente una miserabile fine, Ma sapete, loro pensano di farla franca perché ancora sono vivi. È un'illusione, no? Loro si cibano di illusione. Ma vedete, noi siamo ancora vivi, e che c'entra? Da un momento all'altro il Signore potrebbe veramente farvi morire e vi trovereste all'improvviso nelle fiamme dell'inferno. Ma loro queste cose non le sanno, ma non le credono neppure. Allora, fratelli nel Signore, coloro che predicano l'Evangelo, è del tutto normale che siano odiati, perseguitati, vituperati. Perché? Perché il mondo giace tutto quanto nel maligno. E noi sappiamo qual è l'opera del maligno. Qual è il sentimento del maligno nei confronti dell'Evangelo? Il diavolo odia l'Evangelo, lo odia. Perché? Ma perché, credendo nell'Evangelo, tanti sono stati liberati dalle sue mani, dalla sua potestà. Sono sfuggiti, scampati al suo controllo, al suo dominio. E quindi, sapete, il diavolo sa perfettamente quale sia la potenza dell'Evangelo. E dunque è di fondamentale importanza predicare l'Evangelo. Allora, ho creduto, perciò ho parlato, diceva l'Apostolo Paolo. Quindi è evidente che per annunziare l'Evangelo, come vi dicevo prima, bisogna avere creduto in esso. Se uno non ha creduto nell'Evangelo, come fa ad annunziarlo? Ecco perché oggi molti che si definiscono cristiani non annunziano l'Evangelo. Ma perché non hanno creduto nell'Evangelo? E non avendo creduto nell'Evangelo non sono salvati, non sono giustificati, non hanno la remissione dei peccati, non hanno la vita eterna. Molti cosiddetti pastori evangelici si trovano proprio in questa condizione, nella condizione degli increduli, perché sono increduli. Allora voi vi domandate, ma perché non predicano l'Evangelo? Perché sono increduli. È semplice la risposta. Se credessero nell'Evangelo, lo annunzierebbero. Ma veramente lo annunzierebbero. E come se lo annunzierebbero? Ma costoro sono ancora sotto il peccato, l'ira di Dio è ancora sopra di loro, sono ancora sulla via della perdizione. Non credono nell'Evangelo. Ma sapete quanti ce ne sono? Prendete i massoni. I massoni non credono nell'Evangelo. Sapete quanti pastori massoni che ci sono? Che vanno nella loggia e poi dopo la domenica vanno al culto, no? Salgono sul pulpito e fanno la loro predica. Ma sapete quanti ce ne sono di pastori massoni in tutto il mondo? Non credono nell'Evangelo. Perché ci dovremmo meravigliare che non viene predicato l'Evangelo quando appunto sappiamo bene che dietro moltissimi pulpiti ci sono pastori massoni? Massoni che magari il sabato sera hanno partecipato a una seduta spiritica, dove magari hanno anche consultato gli spiriti per sapere che predica dovevano fare la domenica, e poi la domenica voi li vedete dietro il pulpito, magari con delle occhiaie, perché sapete, queste sedute spiritiche vengono tenute in piena notte, quando le tenebre calano, nella notte, E loro tengono sedute spiritiche. Non lo sapete che ci sono pastori che fanno sedute spiritiche? L'ho anche documentato. Sì, ci sono pastori evangelici che fanno sedute spiritiche. E questi sono quelli che poi, quando si sentono parlare, viene proprio un senso di schifo. Viene una sorta di sentimento di ribrezzo, perché veramente è come sentire qualcuno che è morto nei suoi peccati, nei suoi falli. E quindi qualcuno che odora di morte. L'odore di morte si sente procedere, provenire da coloro che non sono dei nostri, ma che sono in mezzo a noi, badate bene, sono in mezzo a noi, ma non hanno un odore, non emanano un odore di vita, ma emanano un odore di morte. E allora uno si domanda, ma com'è possibile? Com'è possibile? Perché sono sotto il peccato, perché non sono dei nostri. Queste cose le continuo a dire oramai da anni, so che ci sono tanti fratelli che ormai queste cose le hanno appurate da loro stessi, però la mia speranza, il mio desiderio, la mia preghiera è che tanti altri possano veramente appurare personalmente quanto sto dicendo. Ricordo all'inizio quando pubblicai il mio libro La massoneria smascherata, ci fu veramente un'insurrezione da parte di molti, sono i soliti massoni, no? E mi accusavano di vedere la massoneria da tutte le parti, facevano battute di tutti i generi, erano molto sarcastici verso di me. Adesso se voi notate è calato il silenzio, hanno la bocca chiusa. Perché? Perché è venuta fuori la verità. Le denominazioni evangeliche sono in mano alla massoneria, che fa di esse quello che vuole. Ed è per questo che io esorto, a distanza veramente di tanti anni, ancora ad uscire dalle denominazioni evangeliche. Esorto i santi a radunarsi nelle case e naturalmente continuando a vegliare, perché poi i massoni possono sempre intrufolarsi anche nelle case, ma comunque ad uscire, a separarsi dalle denominazioni evangeliche, perché sono condotte da anticristi, da massoni, i quali appunto hanno in avversione l'Evangelo e coloro che predicano l'Evangelo. Andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato, ha detto Gesù, sarà salvato. Quindi il credere nell'Evangelo viene seguito dal battesimo. Che cos'è il battesimo? Il battesimo è la richiesta di una buona coscienza fatta a Dio. Quindi mediante il battesimo, il battesimo in acqua, non si ottiene la salvezza dai propri peccati, non si ottiene la remissione dei propri peccati, non si ottiene la giustizia di Dio o la giustizia che viene da Dio e non si ottiene la vita eterna, perché tutte queste cose si ottengono credendo nell'Evangelo, non quando si viene immersi nell'acqua. Ora, chi ha creduto viene battezzato, cioè immerso, tuffato nell'acqua, perché questo è il significato di battezzare. Gesù, lo leggiamo in Matteo, questo, prima di essere assunto in cielo, disse: andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi, coloro che credono nell'Evangelo devono essere battezzati, immersi nell'acqua, nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Ora, l'immersione deve essere, lo ribadisco questo per l'ennesima volta, totale e non parziale. Perché, come voi sapete, oggigiorno sempre più chiese praticano il battesimo per parziale immersione, che è un battesimo che non è valido. Ci sono veramente dei servizi battesimali che sono veramente una vergogna. Veramente si vedono delle scene orribili, orribili. E noi denunciamo questi battesimi per parziale immersione perché sono una vergogna, sono uno scandalo. E continueremo a farlo. Ogni volta che ne avrò l'occasione, io confuterò pubblicamente, smaschererò pubblicamente quelli che praticano il battesimo per parziale immersione. Perché non è valido. Il battesimo in acqua va amministrato, lo ripeto per l'ennesima volta, per totale immersione. Voglio ricordarvi infatti che Paolo dice ai santi di Roma, queste parole. Dice, o ignorate voi che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù siamo stati battezzati nella sua morte? Noi siamo dunque stati con lui seppelliti mediante il battesimo nella sua morte, affinché come Cristo è risuscitato dai morti, mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Ora, se mediante il battesimo nella sua morte noi siamo stati seppelliti con Cristo, vuol dire che il battesimo deve essere per totale immersione, non può essere per parziale immersione, non può essere che rimane metà del corpo o un terzo del corpo fuori dall'acqua, è inammissibile. Quindi, battezzatori, imparate a battezzare per totale immersione, non abbiate paura dell'acqua, si vedono certe scene dove veramente si vedono persone che hanno paura dell'acqua, di 30 centimetri d'acqua, ma ci rendiamo conto, l'acqua fa paura, ma che è sta paura che fa l'acqua? Ma perché l'acqua fa paura? Ma è possibile che l'acqua fa paura il giorno del battesimo, E non quando invece questi se ne vanno al mare o in piscina, che si vanno a tuffare, fanno i tuffi. Siamo contrari naturalmente, non sto mica giustificando l'andare al mare o in piscina, voi sapete che ne condanniamo queste cose perché sono mondane concupiscenze, però per dire, poi li vedete quando vanno in piscina, quando vanno al mare, che si tuffano, Si divertono loro, vergogna, lì non avete paura dell'acqua, Però quando arriva il giorno, quindi colgo l'occasione per dirvi, smettete di andare al mare in piscina. Però poi quando arriva il giorno del battesimo li vedete là che ci hanno paura veramente di 30 centimetri d'acqua. Ma voglio dire, ma vi manca l'acqua? Ma vi manca l'acqua? Che mettete 30 centimetri di acqua e pretendete di battezzare in 30 centimetri di acqua voi. Questa è la cosa grave. Proprio la stoltezza domina nella vostra vita. E poi fate gli studi biblici sul battesimo per immersione. Ma noi non siamo come i cattolici romani. Noi non pratichiamo il battesimo per aspersione, ma quello per immersione. Ma perché la chiamate immersione quella? Ma perché la chiamate immersione quella che praticate voi? Parziale immersione, ma non totale immersione. Ravvedetevi, convertitevi, prendete le cose del Signore seriamente, vi dovete convertire voi, Altro che mettersi a ridere, Dio ti benedica, ma come fate? Ma con quale sfacciataggine vi permettete, di diffondere falsi battesimi in acqua? Ma chi pensate di essere voi? Poi non vi lamentate quando Dio vi colpisce, schernitori, che vi mettete a ridere davanti alle scelleratezze, alle cose non bibliche. Poi quando Dio vi colpisce, che fate? Piagnucolate. Piagnucolate per i giudizi di Dio che vi arrivano giustamente sul capo. Perché voi disprezzate le cose sante di Dio. A voi non interessa niente. Ecco perché vi dico, vi dovete ravvedere, convertire. Se c'è qualcuno che si deve convertire oggi, siete proprio voi, pastori corrotti. Allora, andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato, sarà salvato. Quindi, il battesimo in acqua segue il credere. Il credere. Il credere che, vi ricordo, viene da Dio. Tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero, ci è stato dato rispetto a Cristo di credere in Lui, è Dio che dà all'uomo di credere, la fede viene da Dio, quindi non tutti possono, Non tutti possono credere, non tutti crederanno nell'Evangelo, perché crederanno solamente coloro a cui Dio dà di credere, i quali sono coloro che sono ordinati a vita eterna, cioè eletti in Cristo prima della fondazione del mondo, i cui nomi sono scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo. Sono loro che credono nell'Evangelo, ascoltano l'Evangelo, la fede viene ascoltando l'Evangelo e loro credono. Quindi il credere non viene dalla persona, ma viene sempre da Dio, come anche il ravvedimento. Dio ha dato il ravvedimento anche ai gentili affinché abbiano anche essi vita. Allora, queste sono cose che io naturalmente ho sempre detto e continuo a dire, continuo a ricordarvi, fratelli del Signore, benché so che voi le conosciate, però è mio dovere farlo. E Dio dunque ha dato il ravvedimento anche ai gentili affinché abbiano vita. Quindi per avere vita bisogna ricevere il ravvedimento da Dio. Da Dio! Ravvedimento, cambiamento di mente. Questo è un altro argomento di cui un'altra cosa di cui si sente pochissimo parlare. Il ravvedimento. Fondamentale. Fondamentale per avere vita. Cambiamento di mente. Perché molti hanno una mente che non è cambiata, che non è nuova? Perché non si sono mai ravveduti. È semplice il discorso. Bisogna andare alla radice del male. Bisogna scavare per raggiungere la radice, cioè da dove ha inizio tutto? Da dove ha inizio tutto? Mancanza di ravvedimento, mancanza di fede nell'Evangelo. Ci credi, se manca il ravvedimento, manca la fede nell'Evangelo, che cosa ci può essere mai? Nuova nascita? Salvezza? Giustificazione? Remissione dei peccati? Ci può essere mai la vita eterna? No! E difatti, molti evangelici sono come i pagani che non conoscono il Dio. C'hanno l'etichetta di evangelici, ma non sono dei nostri. Quando li incontrate, non sentite alcuna comunione con loro. Ma nessuna comunione proprio. È come incontrare un musulmano. È come incontrare un buddista. È come incontrare un satanista. Non c'è alcuna comunione. Loro ti dicono, sai, io vado al culto, sai, io frequento la chiesa, sai, io sono membro, ma non sono nati da Dio, ed è per questo che non hai comunione con loro. E ti domandi, ma com'è possibile? Questo qui si dice cristiano evangelico, ma io non ho alcuna comunione con lui, ma perché? A lui è ancora morto nei suoi falli, nei suoi peccati, non si è mai ravveduto, non ha mai creduto nell'Evangelo, infatti non sa nemmeno cos'è l'Evangelo. Non sa cos'è l'Evangelo. Quando gli chiedi, ma cos'è l'Evangelo? Sai cosa ti risponde? Ti rispondono molti. La Bibbia. La Bibbia? Come? C'è la Bibbia. 66 libri della Bibbia sarebbe l'Evangelo. Ma insomma. Quindi Gesù praticamente avrebbe comandato di andare ad annunziare ad ogni creatura tutta la Bibbia? Tutta la Bibbia? E come si fa? E come si fa ad annunciare tutta la Bibbia? Ma a voi risulta che gli apostoli, quando predicavano l'Evangelo, cominciavano da, diciamo, nel principio Dio creò i cieli e la terra, e poi praticamente arrivavano, ma mettiamo anche, cioè veramente mi viene da ridere, perché io quando sento certe cose, cioè, ma ci rendiamo conto? Ma ci rendiamo conto che cosa dicono alcuni? Che l'Evangelo è la Bibbia, ma no, l'Evangelo è nella Bibbia. Ma l'Evangelo, come vi ho dimostrato, è un particolare messaggio, molto chiaro, molto preciso. Quello bisogna annunziare. Sì, se dovessimo annunziare ad ogni creatura tutta la Bibbia, come facciamo qua? Gliela dobbiamo leggere. Cioè, nel principio io dovrei praticamente ad ogni creatura, ogni volta annunciargli, nel principio Dio creò i cieli e la terra, le ultime parole che sono scritte praticamente nell'Apocalisse, che sono la grazia del Signore Gesù sia con tutti. E quanto ci vuole per annunciare, per leggere tutto questo, tutte queste parole? Ma ci vuole, non so, ci vuole tanto. Questa dimostrazione che molti non sanno cosa sia l'Evangelo. Lo vado ripetendo oramai da anni. Lo so che questa cosa dà molto fastidio a coloro che non conoscono cosa sia l'Evangelo. Però fa molto piacere a coloro che sanno cos'è l'Evangelo sentire ripetere questo, perché la verità è proprio questa. Molti non sanno cosa sia l'Evangelo. Allora, torniamo alle parole di Gesù. Allora, chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Infatti, gli apostoli battezzavano coloro che credevano nell'Evangelo. Vi ricordate infatti che cosa avvenne il giorno della Pentecoste, dopo che l'apostolo Pietro predicò l'Evangelo? Quelli dunque i quali accettarono la sua parola furono battezzati e in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone. Notate dunque che furono battezzati subito, in quel giorno, in quel giorno, coloro che appunto avevano creduto nell'Evangelo. Prendiamo anche per esempio l'Eunuco. L'Eunuco, voi sapete che fu evangelizzato dall'evangelista Filippo, l'evangelista Filippo. E noi sappiamo che anche l'Eunuco fu battezzato nel giorno in cui credette nell'Evangelo. Infatti dice: cammin facendo giunsero a una certa acqua e l'Eunuco disse: ecco dell'acqua, che impedisce che io sia battezzato? Filippo disse: se tu credi con tutto il cuore è possibile. L'Eunuco rispose: io credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio. E comandò che il carro si fermasse e discesero ambedue nell'acqua, Filippo e l'Eunuco, e Filippo lo battezzò. E quando furono saliti fuori dell'acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo. E l'Eunuco, continuando il suo cammino tutto allegro, non lo vide più. Quindi vedete che anticamente, nella Chiesa antica, il battesimo in acqua veniva amministrato subito, lo stesso giorno. Già queste scritture lo confermano ampiamente, quindi non è che venivano fatte aspettare giorni, mesi o anni a coloro che avevano creduto prima di essere battezzati. Voglio citare un altro esempio, che è appunto l'esempio a Corinto. A Corinto leggiamo quanto segue. Ogni sabato, qui sta parlando Luca il medico di letto, sta parlando di Paolo, e ogni sabato discorreva nella sinagoga e persuadeva giudei e greci, ma quando Sila e Timoteo furono venuti dalla Macedonia, Paolo si diede tutto quanto alla predicazione, testimoniando ai giudei che Gesù era il Cristo. Però, contrastando essi e bestemmiando, egli scosse le sue vesti e disse loro: il vostro sangue ricada sul vostro capo. Io ne sono netto. Da ora innanzi andrò ai gentili. E partitosi di là, entrò in casa di un tale chiamato Tizio Giusto, il quale temeva il Dio ed aveva la casa contigua alla sinagoga. E Crispo, il capo della sinagoga, credette nel Signore con tutta la sua casa. E molti dei corinzi, udendo Paolo, credevano ed erano battezzati. Che cosa predicava l'apostolo Paolo? Predicava l'Evangelo. L'Evangelo che lui aveva ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Allora cosa dice la scrittura? Molti dei corinzi, udendo Paolo, credevano, quindi vedete, veniva la fede in costoro, fede che naturalmente sopraggiunge per volontà di Dio in coloro che sono ordinati a vita eterna, dice credevano ed erano battezzati, quindi anche lì venivano battezzati immediatamente. Immediatamente. Vi ricordo che Paolo, nella sua prima epistola ai Santi di Corinto, al capitolo 15, gli ricorda l'Evangelo che gli aveva annunziato. Questo è fondamentale per capire che cosa Paolo annunziava e in che cosa credettero quei corinzi che poi furono battezzati. O che venivano battezzati. Fratelli, io vi rammento l'Evangelo che vi ho annunziato, che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora state saldi e mediante il quale siete salvati, seppur lo ritenete quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano. Quindi ricordatevi sempre questo, che quando c'è scritto credevano, significa credevano nell'Evangelo. Quindi il battesimo, che è la richiesta di una buona coscienza fatta a Dio, il battesimo se deve seguire appunto il credere. Quindi il battesimo è bene che sia amministrato il più presto possibile, il giorno stesso. È ottimale. È biblico. Per totale immersione nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Allora, è evidente che stando così le cose, noi rigettiamo il battesimo dei bambini. Perché i neonati, o pedobattesimo, quando sentite la parola pedobattesimo, è il battesimo dei neonati. Che poi non è battesimo, perché? Perché il neonato non è che viene immerso nell'acqua. Anche se bisogna dire che la Chiesa ortodossa, da non confondere con la Chiesa cattolica romana, pratica il battesimo dei neonati per immersione. Non so se avete visto quei video dove appunto ci sono questi preti, diciamo, con una barba molto lunga, e sono preti della Chiesa ortodossa, o russa o greca, comunque, e che prendono questi bambini e praticamente li immergono, se non ricordo male, tre volte immergono totalmente proprio sott'acqua questi piccoli bambini. Veramente fanno veramente tenerezza questi bambini, a vedere cosa viene fatto a questi bambini, uno inorridisce. Cioè, ma gli apostoli, ma che facevano queste cose? Ma no, non le facevano, queste sono tutte invenzioni. Quindi anche il battesimo della Chiesa ortodossa è un battesimo non biblico, anche se i neonati vengono battezzati per immersione, pensate un po' voi, totale immersione. E peraltro ci sono stati dei casi in cui dei neonati sono anche morti, dispiace. Però corrono veramente sempre dei rischi questi piccoli bambini quando vengono proprio tuffati proprio nell'acqua tre volte. Se vedete certi video, guardate, terribile che cosa, le cose che sono state inventate in mezzo alla Chiesa nel corso dei secoli. Allora, il battesimo dei neonati, sia quello praticato dalla Chiesa Cattolica Romana, che viene praticato per aspersione, viene spruzzata un po' d'acqua sulla testa, sia quello praticato per immersione dalla Chiesa Ortodossa, non sono battesimi biblici. Quelli che devono essere battezzati devono avere creduto. Questo dice, credevano ed erano battezzati. Ma dico io, un neonato, ma cosa crede? Cosa ha creduto? Un neonato, cosa ha creduto? Possiamo dire che ha creduto nell'Evangelo un neonato? No, non si può dire. Eppure, vedete quanta stoltezza esiste in tante chiese? Praticano cose che non sono scritte, anzi, cose che vanno contro ciò che è scritto. Quindi il pedobattesimo va condannato, rigettato, va smascherato, va confutato. Bisogna mettere in guardia dal pedobattesimo. Qualcuno dirà, ma tu sembra che vivi nel Medioevo, per dire. Ma io mi attengo a quello che sta scritto, e ciò che non è biblico non bisogna tollerarlo, bisogna condannarlo. Lo vedete che grande confusione che c'è oggi? Questa grande confusione da chi proviene? Dio non è un Dio di confusione, ma di pace. Ma allora questa confusione da dove viene? Un nemico ha fatto questo. E noi sappiamo chi è questo nemico. È il diavolo, che è bugiardo e padre della menzogna, e che fa inventare sempre cose che vanno contro la parola di Dio. Quindi, coloro che hanno creduto nell'Evangelo vanno battezzati. Vanno battezzati perché così il Signore ha ordinato. Guardate bene, è il Signore che l'ha ordinato. E quindi bisogna ubbidire all'ordine del Signore. Però ricordatevi sempre che, appunto, l'uomo per essere battezzato deve avere creduto nell'Evangelo. Quindi è bene che il battezzatore si accerti che il battezzando abbia creduto nell'Evangelo. È indispensabile. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.